trasmettere voi ai grottaghesi, in realtà lui non sapeva neanche, cioè. Ma è proprio quello il fatto. Secondo me, in questo caso, la differenza fondamentale è che noi stiamo cercando di fare un fatto di comunicazione. Lui semplicemente sta sbagliando il supporto per delle illustrazioni. Esatto. Cioè, le puoi fare tranquillamente nel diario a casa e non per forza sul muro della signora. Secondo me, anche noi potevamo farli sul diario a casa orientativamente, però all'inizio c'era un'intenzione comunicativa con quello che stiamo Sì, facendo ma nel noi. momento in cui tu esponi questa cosa a tante persone, a tante persone che la pensano in maniera diversa, a tante persone che agiscono anche in maniera diversa, appunto dalle conoscenze che uno ha dell'arte, del trasmetterla a qualcuno, a quanto pare si vede che lui, l'uomo tigre, gli piaceva come immagine e quindi l'ha Appunto. trasmessa nella sua ingenuità, No, è chiamiamola così. ingenuità. Sì, hai ragione, ma magari è così. Ma infatti il problema è quello, è che la gente non capisce un cazzo, quello è il fatto. Secondo me sempre, io poi c'ho Però è una il punto di reazione a vista quello che mio. voi avete fatto ed è una cosa meravigliosa, bellissima. Io conosco il Festival di Grottaglie perché sono anch'io pugliese e non conoscevo lo studio Cromia, Male, male, male. non lo conoscevo anche perché è un po' di tempo che sono qui, quindi mi sono completamente dissociata dalla Puglia in realtà. Malissimo, malissimo, malissimo. Vabbè, ognuno poi agisce, reagisce in maniera diversa, appunto. Però nel momento in cui tu ti esponi così tanto in un contesto in cui Devi essere pronto alle nessuno reazioni. conosce, Sì, esatto. certo. Cioè, ma infatti è bello anche quello. È Allora è bello bello anche parlarne quello. e dire Sì, quello che uno pensa. E io se devo certo. parlare di questa cosa qua, mi viene da dire che mi fa una tristezza infinita. Anche a me fa Quella. tristezza, però alla fine comunque è una reazione che Certo, che una sono. reazione sia indubbio. Sì. Poteva andare peggio, eh. A voglia, molto Poteva anche peggio. essere non so cosa. Tutto ricoperto di grigio, sì, che tristezza. Però non so se è peggio. Toppe, non lo Non lo so. so. Vai Michele, dimmi È una pure. provocazione. No, nel senso, vabbè, il Fan Festival nasce per rompere la maniera, no? In qualche modo trasmettere un messaggio che vada poi oltre quelle che sono come si comportano le amministrazioni, diciamo, locali del Sud Italia. Tu hai raggiunto lo scopo. È diventato famoso il Fame Festival, quindi tu, cioè, l'hai interrotto il Fame Festival per questo motivo. Cioè, nasce per rompere la maniera, però muore perché è rotta la maniera, ma non hai, cioè, l'hai raggiunto lo scopo e finisce qui. Allora, c'è Perché un bel muore momento questo di Fame sincerità Festival? vera, vera, proprio come si deve. In realtà non nasce per quello, per me nasce perché mi stavo rompendo il cazzo io fondamentalmente, avevo bisogno di importarmi degli stimoli divertenti, come ho sempre fatto, a casa mia è sempre stato un porto di mare, di ospiti, di cose, no? Quindi era una cosa molto egoistica in realtà. Era sia un fatto lavorativo, perché con le serigrafie avevo capito bene o male ci stavo campando, con la vendita di queste stampe, che è un fatto proprio dinamico, perché non mi è mai piaciuto il pallone, quindi non avevo argomenti con i miei amici di Grottaglie, non mi accontentavo di andare a mare, andata e ritorno, quindi dovevo fare qualcosa di diverso. Questo qualcosa di diverso mi sono venuto incontro questi, non necessariamente artisti, a me non me ne frega un cazzo né di fare robe sul pubblico necessariamente, né di fare cose con l'arte. Per me se fosse stato, poteva essere ping pong ad avere questa risonanza o questa potenza comunicativa, avrei fatto ping pong, capito? Il discorso delle conseguenze nell'interfacciarsi con l'amministrazione o col pubblico, è tutta stata una coincidenza se vogliamo. Cioè nel senso io ho fatto una cosa che piaceva a me, di cui avevo bisogno io, in maniera estremamente egoistica. Forse non dovrei neanche arrivare a questo livello di analisi di sincerità, potrei tranquillamente fare il paladino dell'arte pubblica, invece a me non me ne frega proprio un cazzo dell'arte pubblica. Per me era una cosa che volevo fare io con gli amici miei e mi sembrava giusta in quel momento, a priori, cioè mi sembrava che nessuno dovesse dire niente, perché era sicuramente positiva, anche solo nel momento in cui mettevo in moto meccanismi. Poi quando dici tu abbiamo rotto un attimo l'ordine vigente delle cose, è vero, e il momento in cui ho smesso è quando, appunto, lasciatemi passare questa parola, il sistema, diciamo, ha assorbito questa espressione nuova e l'ha fatta inutile. Cioè ha attutito tutto il potenziale comunicativo che aveva quello che facevamo noi in un consenso generale muto, proprio inutile. Per quello che voglio dire col film è, innanzitutto, buttarmi il festival alle spalle, finalmente la gente, devi fare il festival, basta, cioè, sono 10 anni. Fatto sta che quello che voglio dire col film è che nel momento in cui il consenso è diventato così acritico, non aveva proprio più senso, non è che ci doveva essere per forza lo scontro, però la comunicazione, no? Perlomeno dimmi che ne pensi veramente, non siccome hai letto su una rivista francese che è bello, devi dire perché è bello per forza. Non so se succede anche da dove venite voi, però da dove vieni tu sì, perché so che vieni da dove vengo io, però i paesini del sud Italia soffrono una certa sudditanza proprio nei confronti del nord e dell'estero a maggior ragione, si è sempre più amplificato, più di lontani più diventa ufficiale quello che succede. Contrapposizione tra periferia e centro, secondo me, Sì. chiedono a nord e sud, permettimi, quindi sicuramente anche al Non so nord. sicuro di questo, perché ci sono pure fattori economici, sociali e di isolamento proprio. Non è soltanto periferico il discorso, secondo noi siamo proprio abituati a pensare che quello che succede al nord è meglio. Tu pensa quanti se ne vanno a lavorare a. Quanti se ne vanno a lavorare a Cessaccio, un paese in provincia di Como, per dire. Che cazzo per fare? Da operaio, a sto punto state a casa, no? E invece no, va là. Così come quando se pensi a un. Succede spessissimo, tipo che un grottagliese che se n'è andato a Parigi, per dire, no? E sta facendo il parrucchiere, magari veramente in periferia a tagliare i peli dei cani, a Grottagli dice: ma qui tu sei a Parigi. Sì, Come se quella è la cosa, sì, stesse facendo una effettivamente. cosa. Fatica. E quindi quando torna c'ha un certo rilievo, no? E secondo me è proprio un discorso di sud e nord, onestamente. Pensa, tu non puoi parlare di, secondo me non si può parlare di periferia e centro, anche a livello economico. Tu pensa quanto tutti noi del sud siamo venuti a versare soldi nelle casse del nord dell'università e tutto il resto. Secondo me è proprio un discorso da fare. Un po' più, come posso dire, geografico, Molecolare. sì, secondo me è così. Fatto sta che, non so perché siamo arrivati a dire questa cosa, niente, No, era quindi perché avevi smesso quando di la gente ha letto sulle riviste, quando ha visto la galleria di Repubblica online, quando da fuori si sentiva che il festival era una cosa bella, hanno tutti cominciato a dire, proprio a macchinette, bello, bello, bello. Ed è lì che abbiamo fatto quell'edizione di psicopatici in giro, no? Per sperare che qualcuno alzasse la mano e dicesse: un attimo, che cazzo è facile? E invece manco il proprietario di casa, gli avevamo appena smerdato tutta la facciata, è stato in grado di dire una cosa, niente proprio. Quindi proprio è venuto a mancare l'interlocutore. Ci siamo trovati. Come? perdonami una cosa, a me adesso sinceramente tutto il film, per carità, ci sono artisti, a me quella cosa non mi è piaciuta proprio, proprio, cioè È si vede giusto. entrare una cosa proprio brutto, perché io odio il murale fatto da ragazzi che tipo la firma sul muro, ma a me non me ne frega che tu mi firmi il muro, Mi sta se mi piacendo paghi tanto questa l'opera cosa. è un cavolo, non ce la posso fare, una società mirta. Ecco, brava, se qualcuno avesse detto qualcosa come la stai dicendo tu adesso, forse avremmo continuato, forse si sarebbero innescati meccanismi diversi. Invece nessuno ha detto niente, proprio niente. Perché saranno abituati, No, sai? non erano No, abituati. ma diventa lo zigolo ormai, quindi può fare tutto il No, muro. avevano. Sai che Posso fanno dire una tutto il cosa? resto? No, Perché avevano tutti paura di esprimersi veramente, ma sai che capito? hanno prepensato? Che io pure ando da un paesino, però dell'Abruzzo in montagna, quindi tu pensa che è proprio la chiusura, no? E vedono Pecore un ragazzo così giovane del proprio paese che fa qualcosa, porta gente, proprio. porta paradossalmente pure turismo, dicono vabbè, wow. Vengono le persone, è meglio, diamogli Sì. corda, diamogli corda, quindi è per quel motivo probabilmente che non ti hanno detto più E anche nulla. questo è un punto di vista buonista, secondo me non è un discorso dell'indotto, del fatto economico, secondo me è proprio una questione di sudditanza, di stare a sentire quello che dice l'altro e di dire sì. Ma perché lo so perfetta? Perché conosco proprio bene Conosci giustamente la mia qua, gente, diciamo, ne sono logicamente. proprio certo. Cioè non è che sono maligno, io sono sicuro che è così. Volevi dire, scusa? No, sto dicendo che è una cosa proprio automatica, se fosse venuto, io sono di un paesino, tra l'altro vicino al sud, del sud, se fosse venuto qualcuno ad invertirmi la facciata di casa, ovviamente la prima reazione sarebbe stata uscire, ma che cazzo ha fatto? Però magari col senno di poi è normale che dopo l'hanno visto il primo locandino, le cose, si è passata da Angelo Milano Vandalo a Angelo Milano l'artista. È proprio una cosa all'infuori del nord è meglio, Anche quindi io capito, ma questa vabbè, cosa c'è più, il nord era per un c'è altro proprio il discorso discorso, di che è troppo profondo. per come erano arrivati a pensare cose positive, secondo me. Però nord, mi sono sbagliato, era anche estero, non necessariamente nord, erano riviste, cose di tutto, cioè, televisioni, stava succedendo un macello a livello mediatico in quel momento. Però quello che dico io è, il discorso è stato proprio quello. Adesso siamo arrivati a un livello che per me è l'unica cosa veramente interessante, in realtà, sono proprio quelle scritte che ti fanno schifo a te. Perché sono l'unica, perché nel frattempo, poi in questi anni, che è successo? Tutti questi artisti hanno fatto il loro percorso da giovani che avevano questo istinto di andare fuori a pittare perché non sapevano neanche perché loro, ma dovevano farlo, ed era appunto proprio un'esigenza espressiva, a artisti consacrati e invitati e blasonati, non so come dirti, sono diventati tutti mainstream se vogliamo. Ma anche loro ne parlano? Sì, tanti loro mo sono proprio grossi, cioè l'ultimo, che il penultimo che parla è proprio il male assoluto. Sì, Tedesco? no, quello è francese. Francese, ebreo,

di tutta quella retorica dell'arte pubblica di riappropriarci del nostro spazio, quelle cose là, quella devo dire ancora che me la sento un po' vera. Nel senso, io Grottaglie me la sono sempre sentita mia, ma mia proprio, cioè come se solo, cioè non solo mia, ogni Grottaglie si può dire solo mia, secondo me. E io me la sentivo mia, perché nessuno mi doveva dire che cosa dovevo fare io in giro per Grottaglie. Quindi in quel momento là, noi facevamo quella cosa là, ed era effettivamente un discorso di riappropriazione di uno spazio pubblico, perché io lo attraverso ogni giorno ed è anche mio, quello mi sentivo di fare io. Nel momento in cui ci facciamo queste cose che erano appunto esposte, erano all'esterno, c'era l'interlocutore. Quanto tu dici che non, ha, che, non hanno, che abbiamo fallito, io non la vedo proprio così, nella comunicazione, nella spiegazione. Però noi, perché noi non volevamo insegnare niente a nessuno, noi, per quello il discorso, noi non stavamo nella posizione superiore e l'osservatore inferiore. Noi, per me era proprio tutto un marasma, che ognuno poteva fare che cazzo voleva. Per quello dico, non è che penso che noi stavamo cercando di insegnare qualcosa, o che penso che... Perché doveva generarci, generava un dibattito, critico. Ti dico, guarda, scusa, allora, se interrompo, il primo anno, per esempio, nel disastro che nessuno capiva un cazzo, se ne venivano e ci facevano queste tre domande, sempre quasi sempre queste, ed era per me era proprio un allarme, un segnale d'allarme enorme su proprio su come viviamo la città o anche la vita proprio. Se ne venivano e facevano. Chi vi autorizza? Ci avete l'autorizzazione? Prima domanda. Quindi autorità, repressione, così. La seconda domanda era sempre chi vi paga? Quindi retribuzione, quindi autorità, soldi. E la terza domanda era chi ha vinto l'anno scorso? La competizione, capito? Queste tre cose erano le tre categorie per le quali proprio riuscivano a identificare quello che stavamo facendo. Capisci che non c'è effettivamente lo spazio per... Non volevamo parlarci, onestamente. Cioè io volevo fare quello che volevo io e loro potevano fare quello che volevano loro. Tant'è, quando ci hanno cancellato il pezzo, ma mica me ne è fregato niente. Io mica mi sono sentito offeso o mi sono sentito... Cioè ho detto, meglio così, hanno fatto una cosa loro, una cazzata loro, ma ne facciamo altre 300 noi, capito? Quindi, ma non lo so, non mi sento che abbiamo fallito nello scopo che in quello che stiamo facendo. Secondo me quello che stiamo facendo l'abbiamo fatto fino all'ultimo come lo volevamo fare. Avremmo fallito se l'avessimo portato avanti in modo inutile, cioè, secondo me. Ma tu sei sicuro che sarebbe rimasto inutile? Sì, non lo so. Sarebbe stato utile nel momento in cui veramente poi va a finire che c'è il negozio col souvenir, con la cartolina, del così sarebbe diventato. No. Già c'era stato un calendario l'ultimo anno, c'era un calendario per dirti, e quindi l'utilità era l'indotto sicuro, perché comunque la gente veniva e viene tuttora, anche adesso viene gente a vedere i murales, tipo, quindi ristorazione, quelle cose. Però io in realtà devo dirla proprio tutta, da pugliese sto molto attento anche nei confronti del turismo, secondo me il turismo non è manco un'arma a doppio taglio, è solo male, cioè io vedo che il turismo sta creando dei problemi serissimi, cioè quindi quello che poteva fare questo festival era solo danno. Solo. Dipende dove vai. In che senso? Tu vedi, ci sono alcuni luoghi in cui durante il turismo è stato preso l'ultimo, cioè i clienti, le bilecce, pure con il fatto di Libia, e veramente vedi, cioè tu che sei nel posto non vedi più, vedi anche veramente Firenze. Ma tutte le città d'Italia in realtà, al momento. Ma non c'è proprio modo di pianificarlo per come siamo messi adesso, non siamo proprio intelligenti abbastanza in Italia, credo, per gestirlo in maniera, come devo dire, responsabile. Tu pensa soltanto che abbiamo svenduto e distrutto Venezia, Firenze stessa, Roma pure, vabbè Roma è troppo grande, ma manco te ne accorgi, ma pure per dirti Napoli, ormai non è più Napoli, pensa alla città con l'identità più forte del mondo, adesso già sta cedendo al ricatto di Airbnb e il folklore dei quartieri spagnoli, stanno spettacolarizzando tutto proprio in quella direzione là per la recensione di internet. Tu pensa tu a che cosa potrà succedere in Puglia, che cosa sta succedendo in Puglia, cioè è un delirio, un disastro totale, meglio stare fuori con tutte queste dinamiche. Viva l'Ilva, viva l'Ilva, acciaieria, tumori, state lontani. No, è bello anche il discorso del nuovo limite, ma basta, cioè andiamo a trovare da un'altra parte il limite, figurati. Non è l'importante, per me è importante aver fatto un nuovo limite che desse delle reazioni. Sì, sì, sì. Ma ce ne sarebbe, guarda, secondo me, ti devo dire la verità proprio, quando chiudo gli occhi la sera e vado a letto ci penso, perché queste domande me le fanno spesso, onestamente, mo sto proiettando quasi ogni settimana, no? Concretamente, veramente, senza voler fare il sensazionalista o il tipo, ehi, però l'unica cosa che penso è che la cosa successiva da fare è la rapina in banca, proprio, la rapina in banca, andare tutti insieme a fare la rapina in banca, perché tanto, proprio a livello di la cosa da fare che può avere senso e che può... Un dirigente di banca, che può riequilibrare un attimo le cose. No, si può vedere. Sì, ormai. Quindi fondamentalmente il nuovo, cioè, limiti ce ne sono, certo, però dipende da dove vuoi mettere l'asta, capito? Non l'iniziativa che viene spettacolarizzata, non sì, tutto sì. Quello che può essere riassorbito. E l'unica cosa che non può essere riassorbita è la quotidianità della nostra vita, è oggi, domani, secondo me. E quindi in quella cosa, no, del casale, in qualche modo, vedo più questo, ecco, cioè questo tentativo di effettivamente iniziare a costruire dal basso una trasformazione diversa. Però ti interrompo, questo è possibile solo nella dimensione pubblica, nella dimensione privata. La dimensione pubblica va completamente abbandonata, nel senso, ormai secondo me per fare cose in Italia devi essere necessariamente privato, non puoi mai stare a sperare che nel pubblico qualcuno ti aiuti in maniera concreta senza porti limiti eccetera eccetera. Quello che abbiamo fatto noi è rinunciare completamente alla dimensione pubblica, ovvero cercare quelle trasformazioni là sperando che la gente le possa accogliere e possa diventare parte attiva di queste trasformazioni, e dire andate a fanculo tutti, io mi chiudo da per cazzi miei e mi trasformo io la situazione mia, che purtroppo è, da un certo punto di vista, è una rinuncia, però è anche, se vogliamo, una forma di depressione, non so come dirti, però ero un ragazzino idealista all'inizio di questa roba qua, avevo 20 anni, stavo proprio carico, c'avevo un sacco di energie, che ce l'ho magari adesso, però ho la pancia, sto messo male, quindi adesso ho mollato completamente la dimensione pubblica e mi sono rinchiuso in quella privata. Quindi se tu mi parli del casolare, sì, può essere che il discorso sia quello, però per me adesso è proprio un discorso di voler fare le cose esattamente come dico io, anche nell'arte. Quello che stiamo facendo con gli artisti adesso è astrarci completamente dai meccanismi standard, che sono il gallerista vecchio a cui devi leccare il culo e che poi manco ti paga, che è il museo che per andare là devi bussare, devi fare, devi conoscere, devi fare. Tutti questi contenitori secondo me sono un po' di una generazione che non ci appartiene, perlomeno per come mi sento orientato io, e nonostante abbiano ancora un sacco di credibilità, di visibilità, e vanno avanti, andranno avanti per sempre, mi sembra che si è creato lo spazio nella generazione nostra, che è quella che può produrre tutto con dei mezzi economici, le macchine fotografiche, cioè ormai è così semplice che possiamo produrre e vendere anche con internet, capito? Se prima veramente c'era bisogno di quel sistema per campare, adesso invece c'è un'alternativa coerente in cui ognuno può fare quello che vuole. E quel è lo stesso discorso che dicevo, la trasformazione. A me sembra, sempre sperando di avere di conservare la stima che ho nei confronti di cose che faccio con gli amici miei, è che stiamo facendo esattamente quella cosa là, creando un sistema, un'isoletta in cui facciamo le cose come ci piace a noi, senza entrare a far parte di meccanismi che non ci competono e che non ci piacciono. Tu pensa che all'inizio, quando producevamo le robe, producevamo principalmente serigrafie, tuttora. La serigrafia di quegli anni era, sempre in maniera proprio quasi idealistica o politica, rendere un'opera d'arte accessibile a più persone. Ovvero, se blu, che se ti vuoi comprare un disegno di blu devi spendere cifre che nessuno di noi si può permettere, se tu volevi un'opera di blu, io facevo 150 copie e le vendevamo a 300 euro, capito? Che è comunque una follia, comunque stiamo parlando di oggetti di lusso e di cose di cui nessuno ha bisogno, però se proprio uno vuole il cazzo di disegno e lo vuole firmato da lui perché c'è il feticismo dell'oggetto, se lo poteva comprare, capito? Quindi anche il modo in cui stavamo facendo arte noi era un minimo più più sostenibile, anche più umana se vogliamo, non aveva quell'ottica. Adesso è cambiato tutto, adesso siamo su un altro mondo, però in testa a me lo sto facendo in maniera coerente, lo sto facendo come piace a me, lontano appunto dal pubblico, e più per una trasformazione nostra con me e gli amici miei, fondamentalmente. Poi il pubblico ti fa accampare, Angelo, attenzione. No, aspetta, tu per pubblico intendo non pubblico osservatore. Io per pubblico intendo proprio la dimensione pubblica, la dimensione, come devo dire, non so come spiegarti, per dirti, tuttora ci sono delle possibilità di fare cose nel mainstream, capito? Cioè, per farti un esempio, non solo commerciale, proprio anche pubblico nel senso più mediatico, sai, più strizzare l'occhio qua, stringere la mano là, per dirti, se ne vengono a grottarli spesso, e non è una cosa che dico con orgoglio, è una cosa che dico con fastidio, gente di musei del nord Europa a studiarsi quello che sto facendo adesso come galleria, perché lavoro con degli artisti a cui loro stanno dietro, per dire, che però per magia mi accordano a me questo privilegio di lavorare insieme e a loro magari no, per dire, no? Perché hanno avuto la pazienza di studiarsi quello che sto facendo, magari di vedersi due video, due cose, e si incuriosiscono, si divertono e pensano che magari venendo da me hanno possibilità di fare cose un po' più creative, un po' più vicine alla loro ricerca e non all'inseguire i soldi o la fama, eccetera, eccetera. E quando vengono queste istituzioni, sono venuti, solo l'estate scorsa sono venuti tre curatori di musei grossi, tipo, a chiedermi esattamente come funziona il mio sistema. Secondo me perché anche il loro universo sta un po' crollando. Cioè la galleria con i muri bianchi, tutta fighetta, dove entri con l'atteggiamento chic all'opening col bicchierino, non funziona più come prima, secondo me. Non c'è più quella... C'è sicuramente in sistemi altissimi che non ci competono, Los Angeles, cose, figurati. Però qua in Italia, secondo me, le gallerie, nessuna sta vendendo un cazzo, secondo me. Si stanno cagando sotto un po' tutti. E quello che stavo dicendo prima, che noi stiamo cercando di costituire un'alternativa indipendente, veramente... non è che te lo sto dicendo io perché sono ubriaco di me stesso, però perché mi rendo proprio conto di come alcuni fenomeni stanno prestando attenzione a questa cosa, vengono, mi chiedono, e addirittura già vedo in processo delle trasformazioni anche da parte loro. Ti parlo di gente che ha gallerie enormi e musei proprio sotto mano, che dicono, l'anno prossimo voglio fare una residenza in un posto bello, magari in campagna, dove gli artisti vengono, producono, stiamo insieme, che è esattamente quello che faccio io adesso. Se ne vengono in Puglia, che è una situazione... come devo dire, rurale, bella, così, andare a mangiare mia madre, stiamo là, andiamo in piscina, andiamo al mare, è proprio un discorso che... Non quelli... i musicisti negli anni 70, mi era pensare. Non lo so. È ritornata questa pratica. Sicuro. I musicisti, le residenze artistiche, sono gli artisti, sono pronti, vivono insieme, fanno sì, però quello che dico io è, quella dimensione pubblica, intendevo il mainstream, forse, sì. Non volevo dire quello. Quando mi dici che il pubblico mi dà da mangiare, è vero, perché comunque effettivamente vendo e faccio e cazzi vari, però sto sempre nella posizione che non devo dire grazie a nessuno, secondo me, perché fra l'altro una cosa che non è così scontata e che a primo acchito può sembrare guardare la cosa dall'altro lato, però negli anni sono sicuro che, cioè, se mi faccio i conti in tasca ho proprio la dimostrazione che è così. Chi ha comprato cose da me negli anni, particolari cose, non tuttissimo, però tante robe che hanno comprato, in realtà ha fatto l'affare lui, capito? Cioè, come se loro dovessero ringraziare me, paradossalmente. Chi si è comprato una stampa di blu a 300 euro oggi se la vende a 5.000 euro senza problemi, per dirne una, se proprio la vogliamo mettere dal punto di vista di grazie che mi stai dando 300 euro, no, col cazzo, io ti sono una possibilità di supportare un artista che ti piace, comprare una cosa che ti piace, per di più non stai manco perdendo soldi, cioè non devo dire grazie a nessuno, stronzi, tutto qua. Scusate l'arroganza, cosa, c'è qualcun altro da dire? No, cioè, io semplicemente, no, in questo percorso che magari sono tracciato, negli ultimi discorsi che sono stati fatti, vedo un po', cioè, in un sistema per esempio politico istituzionale, che sappiamo che viene premiato comunque dal poter portare dei risultati da vendere, per fare notizie, cioè è ovvio che l'approccio a qualsiasi cosa è a scopo di quello, come nello stesso tempo a livello economico